Tristezze, capitolo ventunesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. Capitolo ventunesimo. Tristezze. Primo. Paese notturno. Capanne, stolli ed alberi alla luna sono, od un tempio dell'antico Anubi, fosca rovina. Stampano una bruna orma le nubi sulla campagna, e più profonda e piena la notte preme le macerie strane, chiuse allo sguardo dove alla catena uggiola un cane. Ecco la falce d'oro all'orizzonte, due nere guglie a man man dipinge, indi non so che candido. Una fronte bianca di sfinge? Secondo, rammarico. Chi questo nuovo pianto in cuor mi pone? Verso occidente, o dolce madre aurora, da te lontano la mia vita è corsa. Il cielo s'alza e tutto trascolora. Passano stelle e stelle in lenta corsa. Emerge dall'azzurro la grand'orsa e sta nell'arme fulgido Orione. Come più lieta la tua vista quando un poco accenni delle rose e dita e la greggia s'avvia scampanellando. Esce il bifolco e rauco i bovi incita. Canta lassù la lodola. Apparita ecco Giulietta e piange al suo balcone. Terzo. Sogno. Per un attimo fui nel mio villaggio, nella mia casa. Nulla era mutato. Stanco tornavo, come da un viaggio. Stanco al mio padre, ai morti ero tornato. Sentivo una gran gioia, una gran pena, una dolcezza ed un'angoscia muta. Mamma, è là che ti scalda un po' di cena. Povera mamma, e lei non l'ho veduta. Quarto, i gattici. E vi rivedo, o gattici d'argento, brulli in questa giornata sementina, e pigra ancor la nebbia mattutina, sfuma dorata intorno ogni sarmento. Già vi schiudea le gemme questo vento che queste foglie gialle ora mulina, e io che al tempo allor gridai cammina, ora gocciare il pianto in cuor mi sento. Ora le nevi inerti sopra i monti e le squallide piogge e le lunghe ire del rovaio che a notte urta le porte e i brevi dì che paiono tramonti infiniti e il vanire e lo sfiorire e i crisantemi, il fiore della morte. Quinto, la siepe. Qualche bacca sui nudi ramicelli del biancospino trema nel viale gelido. Il suol rintrona andando, quale per tardi passi il marmo degli avelli. Le pasce il piccol re, re degli uccelli, ed altra gente piccola e vocale, sodono a sera lievi frulli d'ale, via quando giunge un volo di monelli. Anch'io, ricordo, ma passò stagione, quelle bacche agli uccelli della frasca invidiavo, e le purpuree more, e l'ala, i cieli, i boschi, la canzone, i boschi antichi, ove una foglia casca muta per ogni battito di cuore. Sesto, il nido. Dal selvaggio rosaio scheletrito penzola un nido. Come a primavera ne prorompeva empiendo la riviera il cinguettio del garrulo convito. Or v'è sola una piuma che all'invito del vento esita, palpita leggera. Qual sogno antico in anima severa, fuggente sempre e non ancor fuggito. E già l'occhio dal cielo ora si toglie, dal cielo dove un ultimo concento salì raggiando e dileguò nell'aria. E si figge alla terra, in cui le foglie putride stanno, mentre a onde il vento piange nella campagna solitaria. Settimo, il ponte. La glauca luna lista l'orizzonte e scopre i campi nella notte occulti e il fiume errante. In suono di singulti l'onda si rompe al solitario ponte. Dove il mar che lo chiama? E dove il fonte ch'esita mormorando tra i virgulti? Il fiume va con lucidi sussulti al mare ignoto dall'ignoto monte. Spunta la luna. A lei sorgono intenti gli alti cipressi dalla spiaggia triste, muovendo insieme come un pio sussurro. Sostano biancheggiando le fluenti nubi a lei volte, che salian non viste le infinite scalee del tempio azzurro. Tredicesimo. Al fuoco. Dorme il vecchio avanti i ciocchi. Sogna un nuvolo di bimbi che cinguetta. Il ceppo al fuoco russa roco. Dorme anch'esso. A tutti i nocchi sogna grappoli e corimbi. Rosei pendono nell'aria solitaria. Bianchi bimbi tra il fogliame. Su, su, a quel roseo sorriso vanno. Il ceppo occhi di brace apre e tace. Ecco pendulo lo sciame dal grande albero improvviso. Su, su, il vecchio nel cor teme, guarda e geme. Ogni bimbo al suo fiore alza la mano e scivola e va. Sbarra il ceppo la pupilla, crocchia e brilla. E il vegliardo al crocchiar balza nella rotta oscurità. Gira lento gli occhi. Solo, solo, solo. Nono, il lampo. E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto. Il cielo ingombro, tragico, disfatto. Bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto. Come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte nera. Decimo, il tuono. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque, e poi rimaneggiò rinfranto, e poi vanì. Soave allora un canto s'udì di madre e il moto di una culla. Undicesimo. Lontana. Cantare il giorno ti sentii. Felice? Cantavi. La tua voce era lontana. Lontana come di stornellatrice per la campagna frondeggiante e piana. Lontana, sì, ma io sentia nel cuore che quel lontano canto era d'amore. Ma sì lontana che quel dolce canto dentro nel cuore mi moriva in pianto. Dodicesimo. I ciechi. Siedono lungo il fosso, al solleone, fuor dello stormeggiante paesello. Passa un trotto via via tra il polverone, una pesta, un alterco, uno stornello. E da terra una grave salmodia si leva, una preghiera al lor cospetto. Il nostro pane, gemono via via. Il nostro, tu, Gesù, l'hai detto. Tredicesimo. Dalla spiaggia. C'è sopra il mare tutto abbonacciato il tremolare quasi d'una maglia. In fondo, un ermo colonnato nive e colonne d'un candor che abbaglia. Una rovina bianca e solitaria. Là dove azzurra è l'acqua come l'aria. Il mare nella calma dell'estate ne canta tra le sue larghe sorsate. O bianco tempio che credei vedere nel chiaro giorno, dove sei vanito? Due barche stanno immobilmente nere, due barche in panna in mezzo all'infinito. E le due barche sembrano due bare smarrite in mezzo all'infinito mare. E piano il mare scivola alla riva e ne sospira nella calma estiva. Quattordicesimo. Notte di neve. Pace, grida la campagna, ma lontana, fioca, là un marmoreo cimitero sorge, su cui l'ombra tace e ne sfuma al cielo nero un chiarore ampio e fugace. pace, pace, pace, pace nella bianca oscurità. Quindicesimo, nevicata. Nevica, l'aria brulica di bianco, la terra è bianca, neve sopra neve, gemono gli ulmi a un lungo mugghio stanco, cade del bianco con un tonfo lieve. E le ventate soffiano di schianto e per le vie mulina la bufera. Passano bimbi, un balbettio di pianto, passa una madre, passa una preghiera. Sedicesimo, notte dolorosa. Si muove il cielo tacito e lontano. La terra dorme e non la vuol destare. Dormono l'acque, i monti, le brughiere. Ma no, che sente sospirare il mare, gemere sente le capanne nere. V'è dentro un bimbo che non può dormire. Piange e le stelle passano pian piano. Diciassettesimo. Notte di vento. Allora sentii che non c'era, che non ci sarebbe mai più. La tenebra vidi più nera, più lugubre udii la bufera. Venia come un volo di spettri, gridando ad ogni empito più. Un fragile squillo di vetri seguiva quegli ululi tetri. Oh, solo nell'ombra che porta quei gridi, chi passa laggiù? Oh, solo nell'ombra già morta per sempre, chi batte alla porta? Diciottesimo. La baia tranquilla. Getta l'ancora, amor mio, non un'onda in questa baia. Quale assiduo sciacquio fanno l'acque tra la ghiaia? Vien dal lido solatio, vien di là dalla giuncaia, lungo vien, come un addio, un cantar di marinaia. Tra le vetrici e gli ontani vedi un fiume luccicare, uno stormo di gabbiani nel turchino biancheggiare e sul poggio più lontani i cipressi neri stare. Mare, mare, dolce là dal poggio azzurro, il tuo urlo e il tuo sussurro. Fine del capitolo ventunesimo.